Canto 33esimo della Divina Commedia, Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 33esimo. Deus venerunt gentes, alternando or tre or quattro dolce salmodia, le donne incominciaro lagrimando. E Beatrice, sospirosa e pia, quella ascoltava sì fatta che poco più alla croce si cambiò Maria. Ma poiché l'altre vergini dier loco a lei di dir, levata ritta in pie, rispose colorata come fuoco: Modicum, et non vi debitis me, et iterum, sorelle mie dilette, modicum, et vos vi debitis me. Poi le si mise innanzi tutte sette, e dopo sé, solo accennando, mosse me e la donna e il savio che ristette. Così sen giva, e non credo che fosse lo decimo suo passo in terra posto, quando con gli occhi mi percosse, e con tranquillo aspetto, vien piuttosto, mi disse, tanto che s'io parlo teco, ad ascoltarmi tu sii ben disposto. Sì, com'io fui, com'io doveva seco, dissemi, frate, perché non t'attenti a dimandarmi omai, venendo meco? Come a color che troppo reverenti dinanzi al suo maggior parlando sono, che non traggono la voce viva a denti, avvenne a me che senza intero suono incominciai. Madonna, mia bisogna voi conoscete, e ciò ch'ad essa è buono. Ed ella a me, da tema e da vergogna voglio che tu omai ti disviluppe, sì che non parli più com'uom che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è, ma chi n'ha colpa creda che vendetta di Dio non teme suppe. Non sarà tutto tempo senza reda l'aguglia che lasciò le penne al carro, perché divenne mostro e poscia preda. Ch'io veggio certamente e però il narro, a darne tempo già stelle propinque, sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro, nel quale un 510,5 messo di Dio anciderà la furia e quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buia, qual temio sfinge, menti persuade, perché a lor modo lo intelletto attuia, ma tosto fien li fatti le naiade, che solveranno questo enigma forte senza danno di pecore e di biade. Tu nota, e sì, come da me son porte queste parole, sì le insegna vivi del viver che è un correre alla morte. Ed aggiamente, quando tu le scrivi, di non celar qual hai vista la pianta, che è or due volte dirubata quivi. Qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Per morder quella, in pena ed in disio, 5.000 anni e più, l'anima prima bramò colui che il morso in sé punio. Dorme lo ingegno tuo, se non istima per singular cagione essere eccelsa lei tanto e si travolta nella cima. E se stati non fossero acqua d'elsa di pensier vani intorno alla tua mente, il piacer loro un piramo alla gelsa, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio nell'interdetto conosceresti all'arbor moralmente. Ma, perch'io veggio te nell'intelletto fatto di pietra, ed in peccato tinto, sì che t'abbaglia il lume del mio detto, voglio anche, e se non scritto, almen dipinto, che il te ne porti dentro a te per quello che si reca al bordon di palma cinto. Ed io, sì come cera da suggello, che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello, ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disiata vola, che più la perde quanto più s'aiuta? Perché conoschi, disse, quella scuola ch'hai seguitata e veggi sua dottrina, come può seguitar la mia parola. E veggi vostra via dalla divina distar cotanto quanto si discorda da terra al ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei, non mi ricorda ch'io straniassi me giammai da voi, né onne coscienzia che rimorda. E se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di lete ancoi, e se del fummo foco s'argomenta, cotesta oblivion chiaro conchiude, colpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quando converrassi quelle scoprire alla tua vista rude. E più corrusco, e con più lenti passi, teneva al sole il cerchio di merigge, che qua e là come gli aspetti fassi. Quando s'affisser, sì, come s'affigge chi va dinanzi a schiera per iscorta, se trova novitate in sue vestigie, le sette donne, al fin d'un'ombra smorta, qual sotto foglie verde e rami nigri, sovra sui freddi rivi l'alpe porta. Dinanzi ad esse, Eufrates e Tigri, veder mi parve uscir d'una fontana, e quasi amici di partirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa, che qui si dispiega da un principio e se da sé lontana? Per cotal prego detto mi fu, prega Matelda che il ti dica. E qui rispose, come fa chi da colpa si disvega la bella donna? Questo ed altre cose dette li son per me, e son sicura che l'acqua di Letè non gliel nascose. E Beatrice, forse maggior cura, che spesse volte la memoria priva, fatto la mente sua negli occhi oscura. Ma vedi, Eunoè, che la deriva, menalo adesso, e come tu se usa, la tramortita sua virtù ravviva. Come animal gentil, che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto, com'è per segno fuor dischiusa, così, poiché da essa preso fui, la bella donna mossesi, e da stazio donnescamente disse, «Vien con lui!» S'io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, io pur canterei, in parte, lo dolce ber, che mai non m'avria sazio. Ma, perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Io ritornai, dalla santissima onda rifatto sì, come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Fine del canto 33esimo. Fine della Divina Commedia di Dante Alighieri, Il Purgatorio.